GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora buona giornata da Giampaolo Mauro, anche questa edizione del giornale radio regionale dedicata in massima parte alla morte di Papa Francesco, venuta questa mattina poco dopo le 7.30. L'annuncio del Vaticano è arrivato intorno alle 10 con il cardinale Farrell, il vescovo di Roma Francesco, ha detto è tornato alla casa del padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa, ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima di Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino. Papa Francesco José Mario Bergoglio era nato a Buenos Aires, aveva 88 anni, era Papa dal 13 marzo del 2013. Degli ultimi tempi, la grave infezione polmonare e il ricovero di oltre un mese in ospedale, dal quale era stato dimesso poco meno di un mese fa. Ieri la sua ultima apparizione pubblica in Vaticano. La notizia della sua scomparsa si è diffusa in tutte le diocesi ed è stata accolta con campane a morto nelle chiese. Per domani sono state annunciate veglie funebri, per esempio a Gorizia, quella che si terrà in cattedrale alle 20.30. E proprio dall'arcivescovo di Gorizia, Carlo Roberto Maria Redaeldi, è arrivata la prima dichiarazione dei presuli della regione. Penso che sia davvero un dolore immenso quello che tutti proviamo, ha detto Redaeldi. Abbiamo visto solamente ieri le immagini del Papa e speravamo di incontrarlo la prossima settimana con 300 adolescenti in occasione del Giubileo dei Giovani. Poi ricordo quando era venuto a Re di Puglia, le parole di pace che ha voluto pronunciare, e ancora speravamo di vederlo anche a Gorizia, per Gorizia capitale della cultura, dove l'avevo invitato personalmente. È stato una persona che ha dato tutto per la Chiesa, ha detto ancora Redaeldi di Papa Francesco. I suoi messaggi e i suoi grandi testi sono indicativi di una Chiesa aperta, con l'idea del camminare insieme e con l'attenzione ai più poveri. Come presidente di Caritas penso anche al grande impulso che ha portato i senza fissa dimora a sentire un concerto e la Cappella Sistina, a sottolineare la dignità della persona. Era l'unica persona che parlava di pace in questo momento, ha concluso Redaeldi. In segno di lutto è stata in parte modificata la programmazione delle reti RAI, che stanno seguendo, come sapete, con un filo diretto notizie e reazioni alla morte di Papa Francesco e alla scomparsa del pontefice. Sarà dedicata in gran parte anche l'edizione delle 14 del nostro telegiornale regionale. Rinviate in segno di lutto a data da destinarsi le partite del massimo campionato di calcio, tra le quali Torino-Udinese, che era in programma alle 12.30. Intenso il rapporto affettivo con il Friuli Venezia Giulia di Papa Francesco, contrassegnato da due visite in 10 anni. Le ripercorriamo in questo servizio. Due visite in regione per un pontificato durato più di un decennio. Quello che legava Papa Francesco al Friuli Venezia Giulia, i suoi fedeli e le sue diocesi, era un rapporto di affetto che affondava anche nel ricordo dei racconti di guerra di suo nonno, che combatté al fronte della Prima Guerra Mondiale. Due visite in cui il pontefice aveva toccato le questioni che gli stavano più a cuore. La prima volta fu nel 2014 a Re di Puglia, quando venne in visita al cimitero austro-ungarico a Fogliano e poi al Sacrario. Qui pronunciò, dopo aver contemplato il paesaggio che lo circondava, parole contro la guerra rimaste nella memoria. Vicino a questo cimitero trovo da dire soltanto: la guerra è una follia. La guerra stravolge tutto, anche il legame tra i fratelli. La guerra è folle. Sempre in quell'occasione parlò di terza guerra mondiale a pezzi, espressione che aveva coniato da poco e che si rivelerà negli anni successivi un triste presagio. In regione Papa Francesco tornò 10 anni dopo, nel 2024, a Trieste, stavolta per chiudere la settimana sociale dei cattolici italiani. Rispetto a 10 anni prima, la gonartrosi gli impediva di camminare, obbligandolo su una carrozzina. Si muoveva poco, ma senza rinunciare a nulla, nemmeno a un ricordo personale e scherzoso su Trieste e su una canzone che gli aveva insegnato proprio suo nonno. Il general Cadorna scrisse la regina: se vuol guardare Trieste, che la guardi in cartolina. In Piazza Unità poi la messa di fronte a 10.000 fedeli, a loro e a tutti, chiese di testimoniare una fede in grado di dare scandalo e di resistere al male del consumismo. È una piaga, è un cancro che ti ammala il cuore, ti fa egoista. E proprio nel capoluogo giuliano, città crocevia di popoli e culture, tornò su uno dei temi simbolo di tutto il suo pontificato, l'accoglienza. Un appello con la forza dell'esortazione e il valore dell'eredità. E a questa chiesa triestina vorrei dire avanti, avanti. Continuate a impegnarvi in prima linea per diffondere il Vangelo della speranza, specialmente verso coloro che arrivano dalla rotta balcanica e verso tutti coloro che nel corpo e nello spirito hanno bisogno di essere incoraggiati e consolati. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Alcune delle reazioni che si sono susseguite dopo l'annuncio del Vaticano. La morte di Papa Francesco all'indomani della Santa Pasqua, ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga, commuove come un segno potente tutti i credenti e tutte le persone di buona volontà alla luce di un pontificato contrassegnato dalla grande capacità di avvicinare la vita della Chiesa alle persone comuni. Ora è il momento di raccogliersi in preghiera. Un Papa venuto dalla fine del mondo che con la sua umanità e gentilezza ha saputo avvicinare le persone alla fede e alla cristianità dando esempio di valori autentici e di straordinaria testimonianza umana e spirituale. Questo invece è il messaggio di cordoglio del Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, che prosegue: rimarrà indelebile nel mio cuore l'incontro avvenuto in Vaticano in occasione dell'inaugurazione del presepe di Grado lo scorso dicembre. Il cordoglio del gruppo consiliare del PD, tra i primi ad affidarlo alle agenzie di stampa. In questo giorno di festa, scrive la nota, all'indomani della Santa Pasqua ci colpisce e ci addolora la scomparsa del Santo Padre. Francesco è stato sempre vicino ai più fragili, ha avuto la capacità di avvicinare la Chiesa alla gente. Ricordiamo le sue recenti visite in Friuli Venezia Giulia, nelle quali ha portato speranza nel cuore di migliaia di fedeli. E ora sentiamole le voci dei fedeli, cominciamo da Aquileia e ascoltiamo le voci raccolte poco fa davanti alla Basilica. La notizia della morte di Papa Francesco accoglie i fedeli visitatori di Aquileia, che è piena oggi di turisti in un giorno di festa, qui in uno dei cuori, in uno dei centri della cristianità in Italia, una cristianità storica e presente. Siamo con alcuni turisti provenienti dall'Emilia Romagna e a loro chiediamo come avete accolto questa morte di Papa Francesco. Male, molto male. Male perché a me piaceva tantissimo questo Papa, ecco, democratico e coi bambini, poi era una cosa eccezionale. Emozione? Sì, c'è emozione, sì. Lei, signora, cosa ricorderà di Papa Francesco? Ah, il suo modo di fare, la sua gentilezza, è stato molto bravo. Cosa si prova a ricevere questa notizia in uno dei cuori della cristianità storica, Aquileia? Mi piace molto, perché era un Papa veramente buono, veramente pensava agli altri, si è adoperato molto per noi. Vorreste che il prossimo fosse simile a lui? Almeno che assomigliasse a lui. Italiano però. Comunque era una gran brava persona. La famiglia era italiana. Sì, ma una gran brava persona. Per me si è fatto volere tantissimo bene, cioè noi l'abbiamo amato tutti, secondo me, proprio tutti. Da qui lei è tutto, Antonio Di Bartolomeo per il GR del Friuli Venezia Giulia. Dalla diocesi di Trieste l'invito alla Chiesa a pregare per Papa Francesco. Il vescovo Trevisi lo ricorda per la visita del luglio 2024, quando per la settimana della settimana sociale dei cattolici esortò ad andare avanti, scrive la diocesi, ci esortò a proseguire nel cammino della testimonianza della nostra fede. E allora ascoltiamo altre voci di fedeli raccolte davanti alla cattedrale di San Giusto. La notizia è giunta per lo più sugli smartphone durante la visita a San Giusto o prima ancora dell'arrivo durante il viaggio in autobus. Per chi ancora non lo sa, la scomparsa di Papa Francesco appare come qualcosa di inatteso, dopo che negli ultimi giorni si era parlato di una ripresa e solamente ieri il pontefice aveva impartito la benedizione Urbi et Orbi. Sapevamo che ieri ha partecipato in maniera ridotta a tutte le celebrazioni pasquali e invece è arrivata veramente un fulmine a ciel sereno questa notizia, siamo rimasti tutti esterrefatti. Cosa pensate? Oddio, è una grave perdita, insomma, io sono atea, non sono proprio estremamente religiosa, però mi piaceva anche come Papa. Anch'io non è che seguo molto la Chiesa, però mi è sempre piaciuta come persona, quindi umanamente mi spiace davvero tanto. Infatti ho seguito le ultime vicende quando stava male, poi vedevo che insomma mia mano, e invece mi dispiace tanto. Con grande dispiacere, perché non ce l'aspettavamo proprio, in quanto ci dicevano sempre in leggero miglioramento, e poi vederlo mancare. Un colpo davvero, guarda. È stato un forte dispiacere, perché secondo me un Papa come San Francesco non avremo più. Fra i fedeli che escono dalla cattedrale e i tanti turisti, italiani e stranieri, il sentimento prevalente è quello del dolore e della sorpresa. Estremo dolore, ovviamente. Abbiamo visitato questa chiesa e contemporaneamente abbiamo saputo la notizia. È grande tristezza. Era una luce in questo periodo molto buio. È una cosa tristissima. Cioè, non si è mai pronti per una cosa così. Preghiamo tutti e un abbraccio grandissimo, un gran vuoto. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Chiudiamo con uno sguardo alla situazione del tempo. Abbiamo cielo da nuvoloso coperto in montagna e in pianura, da sereno a poco nuvoloso sulla costa. Queste temperature registrate alle 11 a Trieste 16,5 gradi, a Gorizia 21, a Udine 18, a Pordenone 17,5 decimi, nell'area montana Tolmezzo 15, a Treviso 14,5, a Sappada e sul Piancavallo 9 gradi, a Forni di Sopra 12, in quota sull'Ussari 8, sullo Zoncolan 5,5 gradi, sulla costa Lignano 18, a Grado 16,5. E queste sono le previsioni a cura dell'ARPA. Oggi pomeriggio avremo cielo in genere variabile con ampie schiarite sulla costa e maggiore nuvolosità sulle prealpi, venti di brezza, zero termico intorno ai 2900 metri. Per domani su pianure e coste è previsto cielo in prevalenza poco nuvoloso, sulla zona montana variabile, con possibilità di rovesci e temporali sparsi che potrebbero interessare localmente anche la pianura pedemontana. È tutto per questa edizione, redatta e condotta da Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Eugenio Giuffrida e Federico Comar. Sono le 12:28. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 1, prossima edizione del GR regionale alle 18:30. Grazie per averci seguito, ancora il miglior augurio di buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.